Mi diverto ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per vedere se sei ancora viva, per sentire se sei ancora vera, per scoprire se sei ancora intera, per sentire se sei ancora in me, per vedere se poi noi due felici per le strade di Bologna. Per le strade di Bologna, noi due in piedi, noi due sereni. Ma tu chiedilo a Parara e Tony, quali sono i giorni cattivi o buoni. Chiedilo ad Andrea che si è perso e ancora lì nel centro che cerca un senso. E poi noi due per le strade di Bologna, per le strade di Bologna, noi due sereni, noi due in piedi. E mi sbaglio ogni tanto a passare sotto casa tua. Non lo faccio apposta, la prendo larga e vedo la serranda e proseguo via via e scorro nel traffico dei giorni e delle stagioni. Ma la tua, la tua, la tua non finirà mai. La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh. E poi noi due, una storia che rimane tra le strade di Bologna, per le strade di Bologna, noi due, nel bene e nel male, forse ti verrà a pigliare, per le strade di Bologna, noi due, che poi noi due, tu e noi. Ciao a tutti, siamo con Fadi a Gogobo. Allora, insomma, com'è stato? Ciao Fadi, com'è stato tornare a suonare dal vivo su un palco? Che effetto ti ha fatto e che effetto ti fa oggi essere qui a Bologna ad un festival nuovissimo nato in un periodo, insomma, un po' difficile? Sono molto molto contento di essere qua oggi. È stato un periodo piuttosto, dai, tribolante, se si può dire così. No, sono molto molto contento di tornare a suonare a Bologna. Dai, no, è bella storia. Allora, Sanremo è stato l'ultimo grande evento prima del lockdown, insomma, abbiamo smesso di parlare di Sanremo e siamo finiti chiusi in casa. Come hai vissuto la quarantena e qual è stato l'aspetto, diciamo, più difficile dopo aver vissuto l'adrenalina e l'emozione del palco dell'Ariston? Beh, diciamo che sono uno che è molto, cioè, nel senso, sto bene nella tranquillità, no? E è stato l'effetto, cioè, c'è stato un bel gap, ecco, una bella, no? Come no? Sì, è stato un po' così, è stata il lockdown. Credo di essere riuscito a salvare la mia integrità mentale perché ero con mio fratello, mio padre. Quindi non eri da solo? No, non ero da solo. Io sono in un paesino marchigiano, nelle Marche, tra le Marche e la Romagna, e siamo stati benone, dai, tutto sommato è andata bene. A Bologna hai frequentato l'università e nel brano che hai portato a Sanremo, sì, Due Noi, c'è molto, sì, della città, ma soprattutto ci sono le persone, Parara e Tony, Andrea, sì, che si è perso, è ancora lì nel centro, che cerca un senso. Ci racconti l'esperienza più folle che hai fatto a Bologna durante l'università e qual è la persona di Bologna che non riesci a dimenticare? Mi viene in mente questo aneddoto qua. Ogni anno venivo su a Bologna col motorino, perché per muoversi a Bologna ti muovi bene col motorino. E allora, cioè, dalle Marche in, sì, motorino? Sì, ho fatto per andare a settembre, venivo sul motore e a fine degli esami tornavo giù col motore. E c'è stato questo ritorno a casa molto, molto tribolato, con sto scarabeo, tornare giù con la chitarra in mezzo alle gambe, i libri da studiare, perché mi ero quasi dimenticato che dovevo scendere giù col motore, quindi è stata una mamma mia che epopea. Alle 6 e un quarto ho bucato la ruota davanti e sono riuscito proprio a metterla a posto in extremis per tornare giù. È stata che epopea, vabbè, quella lì è stata. E le persone ce ne sono un paio, non ne ho una in particolare, delle persone che mi ricordano Bologna. Prima, mentre mi facevo un giro così a vedere i portici, passare in via Ernero, via Zamboni, quelle lì, mi è... Sei emozionato? Sì. Venendo al tema del brano, che è la fine di una relazione, che comunque è un tema che non c'è solo in questo brano, vabbè, io ridendo dico sempre che bisognerebbe scegliere attentamente chi si frequenta, perché poi in qualche modo rimane per sempre. Quindi volevo chiederti cosa rimane secondo te quando una storia finisce, e se ti fa paura uscire dalla vita e poi anche dalla mente di qualcuno. Fai la domanda, per favore. Che cosa rimane secondo te dopo la fine di una relazione, e se ti fa paura uscire prima dalla vita e poi dalla mente di una persona? Guarda, ci sto cercando di capirla bene, però diciamo che credo che quando due persone si frequentano, l'amicizia, un rapporto, comunque sia, no? Diciamo che uno cerca di comunque, anche se la questione ho bisogno che mi guardi, perché sennò mi sembra lì. No, aspetta un attimo, perché no, è così che uno comunque augura il meglio, anche se, no, anche se magari per quel percorso lì, per quel periodo lì, si è stati assieme, si è affiancati, così augura il meglio all'altra persona, no? Nel bene e nel male forse ti verrò a pigliare per le strade di Bologna, dici. Si dice che una persona vada lasciata andare, rincorrere o lasciare andare, affiancare. Bella. Torno alle tue prime canzoni, Cardine e Se ne va, in cui dici la testa al cielo, il cuore al mare. Il mare è spesso presente, e che cosa rappresenta per te? Il mare è un punto cardinale. Io mi oriento un po' col mare da me giù in Romagna. Il mare è sempre lì, d'estate che d'inverno. Soffriamo molto del gap estate-inverno. D'estate c'è molto bulirone, c'è molto, no, fomento, no. Le strade sono libere, ancora, cioè per noi che siamo autoctoni, local diciamo, no? Ci divertiamo tutti e due i periodi. Diciamo che il mare rimane sempre lì. Il mare è come un amico fedele, rimane sempre lì. Ed è bello, perché poi alla fine, quando vai a schitarrare, quando ti vuoi sfogare un attimo, capita che si va a schitarrare con gli amici e si sbraita il mare. Dici, tendimi la mano, sono in alto mare, tendimi la mano, non so che fare. Sì. Quali sono le persone che più ti hanno aiutato nella vita, ma anche nella tua carriera? Quella mano tesa può davvero fare la differenza? Voi veda, assolutamente. Sì, assolutamente. C'è qualcuno che ricorda in particolare che ti ha accompagnato, affiancato, aiutato? Ce ne sono un po', ce ne sono, perché io sono uno che ho proprio bisogno di, cioè molto spesso mi piace farmi i cosi miei, no? Però assolutamente affiancarsi a quei rapporti, no? Che tirano, che ti aiutano, no? Che ci si aiuta reciprocamente, no? Ce ne sono parecchi, dai miei familiari, dai miei amici di più stretti, ne ho un paio. Ecco, c'è un filo rosso che lega i tuoi brani, un tema, un messaggio? Sì, rispetto per l'altro, quello che sento, dove vibro, io cerco di mettere giù e seguire quell'acqua. Farla arrivare agli altri. La ripartenza, l'ospitalità e l'energia dei romagnoli. Insomma, sei cresciuta a Riccione, nell'albergo di famiglia. Cosa hai visto in questi mesi di ripartenza dalla Romagna? Devo dire, sono stato più verso l'entroterra io in quest'estate, perché nell'ultimo anno mi sono trasferito un po' più verso l'entroterra. Dai, ci sono realtà che si sono smosse parecchio, ci sono altre che non hanno voluto aprire, sono di diverse. Però è vero che siete così tenaci, siete così, risolvete i problemi col sorriso. Veramente tenere all'ospitalità a chi arriva lì, a vedere quello che tu offri, quello che sei, quello che porti. Il cliente ha sempre ragione, cioè nel senso, no vabbè, no, la Romagna su sta cosa qua, io saluto in giro, ogni tanto mi capita di dire, no, ma chi è questo, cioè per educazione, cioè sei stato abituato così, da noi arrivi lì, salve, buongiorno, buona giornata, cioè ci sono quelle città e paese, poi certo. Però tendenzialmente c'è un alto tasso di questa ospitalità qua. Progetti, cosa farai adesso? Adesso, a parte suonare al Gogo Bo, sarò in studio, andrò in studio da ottobre. e poi entro febbraio gennaio 2021 uscirà un nuovo album. Faccio un'ultimissima domanda che riavvolgo il nastro, torno indietro ed è Sanremo. C'è qualcosa che ci vuoi raccontare, un aneddoto, una curiosità? Allora, che sei lì, che prendi, sali gli accordi della chitarra, sali le scale, cerchi di imbrigliare tutte quelle emozioni, oh, perché ce le hai, sei lì che dici, oh, cos'è? è un film, no, è la vita vera, è ancora più bella ogni tanto la vita vera. Ci sono proprio io. E poi sì, no, è stato veramente super, cercare, non, dai, è una roba simpatica da raccontare un giorno al bar con gli amici, quando magari saremo... Tra le tante cose che racconterai. Dai. Sì. Grazie Fadi, ciao. Grazie a voi, arrivederci, hasta luego. Baba fumini oh oh, è tutto quello che ti dirò. Quando il ritmo ti dà la testa e nel cuore c'è una gran festa. Baba fumini oh oh, vado in giro a fronte incroci percorro strade, va. Tendimi la mano, sono in alto mare. Tendimi la mano che non so che fare. Baba fumini oh oh, c'è una ragazza nel go slow. Labbra gomme da baciare, labbra gommone per salvare. Baba fumini oh oh, dalla riviera ad oh oh. Io sono bianco, qui sono nero, ba. Sono italiano medio vero. Un italiano medio vero, ba. Vero, ba. Baba, sento un ritmo che sale lungo la schiena che sa di Africa. Siamo in riviera e la sabbia scotta che ci fa saltare, che ci fa ballare, che ci fa saltare. Baba fumini oh oh, impasto il mare Adriatico, con il mio battito l'Atlantico, fai la cutie a casa dei. Baba fumini oh oh, è tutto quello che ti dirò. Dammi un filo di gas, un paio di Vans e ti porto io alla festa. E ti porto io alla festa. Baba, sento un ritmo che sale lungo la schiena che sa di Africa. Siamo in riviera e la sabbia scotta che ci fa saltare. Tutto quello che ti dirò quando il ritmo ti dà la testa e nel cuore c'è una gran festa. E nel cuore c'è una gran festa.